Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo tema da affrontare insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, un tema di stagione, quello dei saldi, partiti anche in Veneto col sabato 6 di luglio, partiti a quanto pare un po' al rallentatore. Ben trovato, ben ritrovato il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo visto tantissima gente nelle piazze, le notti bianche, le notti rose, le notti gialle, di tutti i colori, tanta gente che guarda come sempre le vetrine, ma sempre meno gente che compra. Sì, come ogni anno l'Adico, dopo una settimana circa dall'avvio dei saldi, fa sempre un primo bilancio per capire un attimino l'andamento di questa stagione. E certamente i dati che ne emergono, come dici te, sostanzialmente vanno a sintetizzare cosa? Un grandissimo flusso di persone che entrano, che escono per i negozi, però sostanzialmente anche di fronte alla possibilità di fare qualche buon affare, al momento c'è ancora, diciamo, molta attesa, perché anche questa incertezza in cui il governo continua a rinviare quelli che sono delle importanti scadenze fiscali, certamente stanno incutendo anche grossa preoccupazione alle persone, che da un lato sta cercando di capire se riuscirà ad andare in ferie o meno, e dall'altra di poter pagare o meno tutte quelle che sono delle scadenze fiscali che da settembre a dicembre certamente saremo tutti impegnati a dover pagare. Questo sarà tema di altri approfondimenti appena ci saranno certezze appunto su questa questione. Dicevamo, saldi in calo, lo dicono anche i dati, lo dice anche la vostra indagine. Facciamo qualche numero per capire. Sì, allora a distanza di una settimana abbiamo monitorato circa 300 persone e abbiamo chiesto come sono andati i saldi e quanto hanno speso, e il dato più significativo è che sostanzialmente, almeno nella provincia di Venezia, ma questo è un dato che comunque si riporta anche nelle altre province, solamente una persona su due spenderà circa 50 euro. Quindi si concederà, diciamo, proprio uno sfizio, mentre uno su tre spenderà più di 120 euro. Solamente il 20% del nostro campione monitorato ha detto che spenderà più di 120 euro. Certamente capiamo che sono cifre che, rispetto anche a quelli che hanno delle previsioni che tanti hanno fatto, compreso anche noi, vanno a ridimensionare quello che sostanzialmente era un budget che ogni anno invece arrivava a oltre 200-300 euro. Quindi certamente da un lato anche maltempo, che comunque ha visto per molti commercianti sfumare tutto giugno, però un andamento che difficilmente riuscirà a fare in modo che chi ha iniziato male questa stagione potrà in un certo modo invertire questo trend o questa tendenza. Sì, la stagione appunto fredda fino a giugno non ha consentito di vendere capi di abbigliamento estivo, magari proprio per questo è rimasto dell'invenduto, no? Beh, bisogna dire che il maltempo sicuramente ha fatto la sua parte, perché a giugno, che era ancora molto freddo e ancora non si riusciva a parlare di mare, di vacanze, certamente adesso che sono i primi giorni di vera estate già c'è materiale in saldo, e pensiamo che con i saldi si cominciano anche a tirare fuori quelli che sono un po' le tendenze dell'autunno e dell'inverno. Quindi in un momento in cui è appena finito il freddo e la gente ha voglia di caldo, adesso cominciare a pensare di comprare ed entrare nei negozi e trovare roba autunnale, invernale oppure merce di stagione, che ormai comunque siamo già arrivati a metà estate, certamente complica un pochino quello che possono essere delle iniziative che ogni famiglia stava valutando in questo periodo. Però è anche vero che chi ha voluto o chi desidera fare dei buoni affari, mai come questo momento, ha la possibilità di farlo, perché abbiamo visto dei sconti molto importanti che addirittura sin dall'apertura della stagione sono partiti con un 30%, ma c'è già chi li proponeva ai 50-60%. E poi molto importante che anche quest'anno, tra i vari comparti che l'Adico ha voluto monitorare come comparti di cui le persone rivolgono la loro attenzione per fare acquisto, abbiamo notato che c'è l'abbigliamento al 41%, gli articoli per i bambini 32%, e poi ci sono calzature, accessori al 23%, e per ultimo l'intimo e paradossalmente i costumi. Una cosa molto carina e interessante è che abbiamo notato come la donna è più propensa dell'uomo a fare acquisti durante dal periodo dei saldi e come normalmente l'uomo rispetto alla donna si fa accompagnare anche dalla fidanzata o dalla mamma o dagli amici. Perché l'uomo è tendenzialmente quello che controlla meno cosa c'è nell'armadio, se c'è magari qualcosa da sostituire. A proposito di sostituzioni, probabilmente anche la crisi, insomma, l'abbiamo detto altre volte, ci spinge magari a cambiare le abitudini, magari a continuare a utilizzare ciò che abbiamo nell'armadio e magari a rammendarlo, a sistemarlo, insomma, piuttosto di comprare ancora cose nuove. Certo, come dici te, soprattutto i maschi, ma soprattutto anche le famiglie, in questa fase di incertezza e di profonda crisi si cerca di tirare avanti con quello che si ha o rinviare gli acquisti se non strettamente necessari. È anche vero che mi ricordo un incontro che ho avuto con le associazioni di categoria in cui c'erano rappresentanti anche per esempio di quelli che aggiustano le scarpe, dove sostanzialmente erano un po' gli unici che non si lamentavano di questa crisi, perché dicevano proprio in un momento di crisi le persone, anziché comprarsi le scarpe, cerca di aggiustare quelle che ha. Quindi voglio dire che anche in questa fase di profonda incertezza comunque c'è chi riesce anche a sopravvivere abbastanza benino rispetto agli anni trascorsi. Certamente comunque questi dati fanno capire come il fenomeno è molto preoccupante e sentito da parte delle persone, perché sappiamo che poi tra settembre e dicembre le famiglie dovranno mettere in conto tante altre cose, tra cui non solo il slittamento dei pagamenti che il governo in questi giorni sta continuando a rinviare, ma soprattutto anche l'apertura delle scuole, che a settembre incide pesantemente su quello che insomma è un bilancio che le famiglie devono mettere in conto. E ne parleremo appunto a tempo debito, quando arriverà questo terribile, a quanto pare, mese o periodo tra settembre e dicembre, terribile dal punto di vista dei versamenti e dei pagamenti. Intanto ringraziamo l'Adico e ci ritroviamo con un altro argomento. Grazie Carlo. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.